all'inizio. Sì. Una situazione che è mediante positiva, un bel, all'infinito. Sono 1500 casi 24 ore, fatelo conto dopo. Vedi tu, da lunedì siamo in zona arancione, non ti preoccupare. Direttamente, non già l'arancione. Aria ha fatto tampone in farmacia ed è negativo, però è andata a farsi il elettromolecolare. Adesso deve aspettare il messaggio dalla ATS se è negativo anche lì. Domani rientra al lavoro. Ho capito. Io lunedì là. Lunedì c'ho l'altro tampone. Senza lenticchie però stavolta. Lo so, senza lenticchie, vabbè. Gappa. Vabbè, l'importante è che l'aria sia ripresa, adesso negativa con quella della farmacia, però ha fatto, sta tornando adesso, ha fatto quello il molecolare, adesso aspetta la risposta per essere più sicura, diciamo. Sta bene, sì. Grande, niente più sintomi, è passato l'influenza, è passato tutto. E Luma, 14 giorni con oggi l'aria, cioè con ieri. 14 giorni a casa con ieri. Insomma, terzo giorno oggi, domani è il quarto, a lunedì sono 5 giorni. Se risulta positivo devo continuare. Come di niente, là, un po' di gente. Un casino sta diventando. Boh, sembra che abbiano buttato nell'aria questo cazzo di cosa. Boh. Tutti gli stessi sintomi, gola, osse, mal di testa. A me mal di testa non me ne è venuto, a me a differenza scarica. Anche a me mi ha fatto così, sì, qualche scarichetta, però niente mal di testa, febbre niente, un pochino di raucedine e un po' di mucco e basta. E l'aria invece l'ha crepata. Dolori allucinanti, capite? Vabbè. Comunque adesso già si è ripresa, dai, già va bene. Io così. Dammi giù Gandhi, ho detto la cucciata su e ci gira e fa, ma... sei lì. La cucetta sua, c'ha tre copertine. Capita che magari c'ha freddo, io la copro, ma le copre, ma dopo un po' si scopre. Perché se va c'è troppo caldo, boh. E anche Filippo, io c'ho il riscaldamento acceso alle 4:30. Sta già salendo la temperatura, quindi era coperto poco fa, adesso è scoperto, non c'era più la copertina sopra, un bello sdraiato nella sua brandina, però è scoperto. C'è cosa, ma questa pallone di là. Aspetta che le rispondo. Aspetta Garia che mi deve chiamare, già, va Marco. Vai, in realtà sta aspettando la Marina che gli porta la spesa, là, tranquillo. Eia, ritorno subito lui. Gli hanno bussato la porta, non lo so. Hai visto dalla porta, sì? Sì, mamma mia, cosa brutta. Mi si inceppava proprio la gola, Mi hanno detto anche di comprarmi questo... Aspetta, non te lo dico, e poi mi si stava entrando, via qua, apri. Questo... Aspetta. Sistema immunitario. Tre bustine sono, e ce le si fa per la mano di Dio. Quando la mano ti senti un po' strano, te ne prendi una al giorno, in due giorni ce le ti passa tutto e stai da Dio. Forse sono per rinforzare, per stimolare il sistema immunitario, capito? Per rinforzarlo. Esatto. No, sono qua che ero al telefono, però per telefonare devo uscire fuori. Ciao, Fra, buonasera. Buonasera a te, tutto bene? Sì, tutto bene. In fase di ripresa. E anche qua, ieri abbiamo fatto i tamponi, siamo negativi tutti e tre. E anche l'aria, sì, anche l'aria. Noi l'avevamo, io l'avevo già fatto, negativo. L'aria però ho fatto anche a molecolare, aspettando la risposta della TS, non si sa mai. No, no, noi abbiamo fatto quello, tutti e tre abbiamo fatto molecolare. E l'aria ha fatto quello della farmacia, il generico, poi però ho fatto anche molecolare, capito? Adesso aspetta, però domani va a lavorare, domani mattina alle 7:30 va a lavoro. Me oggi mi hanno sbloccato oggi il Green Pass, a me mi hanno mandato il nuovo, dai, perché quello intermedio me l'hanno bloccato, anche se il vecchio addirittura funzionava ancora, il primo che dopo la seconda dose quello funzionava, poi mi è arrivato il secondo che era rosso, adesso è arrivato il terzo, l'ultimo, e di nuovo verde, dai. Anche a me ha fatto così, anche a me è scaduto, è ancora il rosso, c'è scritto ancora non valido, sicuramente al giorno lo sbloccheranno, ma non me l'ha fatto nulla, tanto io non sto da nessuna parte, se lo vogliono sbloccare lo sbloccano, ma penso di sì, manderanno anche a me un messaggio. Va bene Franco, perché a me me l'hanno bloccato il terzo? A te? Lo chiedo, ma solo controllo, aspetta. Guarda, me l'hanno bloccato, ma dopo 10 giorni, ma neanche quello, cioè me l'ha mandato uno nuovo, il vecchio funziona ancora tutt'oggi, se io gli punto lo scanner, e il vecchio è ancora buono, cioè sto facendo una gattata da dietro l'altra. Sì, ma se io sono positivo, perché mi è arrivato anche il messaggio dalla TS, che vabbè, c'è scritto che vengono loro, fatti il tampone molecolare, vabbè, comunque sia, adesso il Green Pass è bloccato, ma controllo, aspetta, l'ultimo che ho fatto è della terza dose. Sì. Ma secondo me funziona ancora invece. Esatto, te lo bloccano, l'hanno bloccato anche a me, però ancora non me l'hanno sbloccato. No, io non ho la terza dose, capito. Prova, magari funziona ancora, perché vabbè, io quello che faccio in farmacia sicuramente sono lenti a trasmettere, non lo so, questi sono più veloci, perché questo l'ho fatto ieri molecolare, stamattina me l'hanno subito sbloccato, mi sono arrivati i messaggi. No, il mio è ancora bloccato, ho controllato stamattina, è ancora bloccato, però stavo dicendo a Luca che una volta che fai il tampone ed è positivo te lo bloccano, capito, per non farti scimmie, e poi quando fai l'altro tampone se è negativo te lo sbloccano. Vedi che a Franco hanno fatto così, KK, e anche l'aria hanno fatto così, adesso li hanno sbloccato, però oggi stesso li hanno sbloccato. Buongiorno, io l'ho fatto di mattina, l'indomani mattina mi è arrivato il messaggio di andare sull'applicazione e scaricarlo, ma non è che lo sbloccano, cioè è proprio un altro codice, mi hanno mandato un altro codice QR, quindi adesso ne ho tre diversi, il primo verde, il secondo rosso e il terzo di nuovo verde. Quello rosso cancellalo, fra, io il primo lato l'ho tolto, mi ho inserito quello nuovo, adesso aspetto me lo sblocchino, penso, perché io sono negativo, quindi penso tra domani me lo sblocchino. E l'aria l'ho sbloccato in giornata. No, sono pari tutti e due, sia il secondo che il terzo, mi da perde. Non ho detto che sto soffrendo una gattata dietro l'altra. Io volendo sarei potuto uscire, perché il vecchio della seconda vaccinazione è ancora buono, tutt'oggi è ancora buono. Ma infatti non si comprende nulla, fra, credimi che non si comprende nulla. A me mi avevano mandato il Green Pass del primo vaccino, fatti il conto, il primo vaccino. Mi hanno mandato, l'ho scaricato, l'ho messo ed è sempre luglio, non ha mai funzionato. Cosa cazzo me l'hai mandato a fare? E cosa mi tocco? Invece Carlo addirittura ha fatto che lui non è vaccinato, ha fatto il tampone, il primo era positivo e il secondo è negativo, e gli hanno mandato il Green Pass, che lui non ne aveva Green Pass, ed era rosso, però come mai? Ha fatto il tampone, c'è scritto che è negativo e gli manda il Green Pass il rosso, e oggi anche a lui gliel'hanno sbloccato, E c'è un vaccino solo? No, lui non ne ha fatto, ma l'ha passata meglio di noi. Ai miei Lucas, a me mi hanno mandato il primo, quando ho fatto il primo mi hanno mandato subito il Green Pass, ho detto no, ah, lui c'ho il Green Pass, una rottura di palle, ed è sempre Ruglio. Non ha mai funzionato, sempre Ruglio. Non lo so, magari c'è qualche problema. Sono preoccupati per lui, invece, vabbè che è giovane, forse c'è l'anticorpo diversi dai nostri, ma se l'ha passata meglio di noi. Ma a me non ha fatto niente, fra, io c'avevo un po' di raffreddore e basta, niente di che, un po' di voce rauca, niente tosse, niente febbre, nulla, Ilaria è che l'ha creppato, ma Ilaria sai, c'era il reumatoide, quindi anche quello un po' l'ha buttata giù, però tutto a posto, dai, già va bene. Ascolta, invece dimmi come sto andando col Galaxy, bene? Sì, io ti ascolto bene, il segnale sicuramente sta uscendo con massa potenza. Beh sì, sono con... 8 watt. Si vede la differenza. Comunque qui il massimo che si è arrivato è 9, perché il segnalone è per me, da quelle parti lì. Vediamo adesso invece se il segnalone è salito. Com'è? È salito. Adesso si è quasi 9, però la radio è un po' peggiorato. Comunque niente, lo so, per due validi, cazzo, sto facendo male. No, non bene. Quindi addirittura c'è un picchi un po' negativi e la voce sta un po' quasi nel momento sembra che neschi pure ed è un po' compressa. Sì. Sì, sì. Adesso come va, bene? Sì, adesso va meglio. Chi è che è entrato? Quindi adesso va bene così, ultimo. Sì, sì, per me va bene, va molto meglio. Il segnale è aumentato, però la radio è buona adesso. Sembrava strano, non facevo qualche disaccordo, sicuramente, vediamo un po'. Eccolo qua, adesso già va bene. Sì, sì, va bene. Non so se è entrato qualcuno, non so se voi l'avete sentito, io sento qualcosa basso. L'ho sentito male, però adesso già va bene, dai. Lei infatti ha detto qualcosa del genere, male. Forse ha ripetuto a te che stai uscendo male, boh. Vabbè, io posso uscire male un attimo, poi già metto tutto a posto. E allora, qualche ritorno, qualche rientro nel microfono ti ha fatto, ma non eri ben accordato. I picchi sono positivi adesso. No, non lo so, evidentemente era in posizione HI la radio, capito? Stava entrando troppo gas, adesso l'ho messa in posizione low. Invece il mio Smith li segna negativi, questo Smith non deve essere affidabile. No, sono positivi, ehi, è grande. Ma in uscita tu c'hai lo strumento alla fine proprio, diciamo, verso l'antenna? Sì, all'uscita, i picchi sono positivi. Luca? Sì, sono positivi. Luca? Prova? Però Mare attenua lo segnale, qui te ne accorgi meglio. Da me tende a scendere. Prova, qua. Sì, poco scende, è vero, conferma poco. Si va chi va a vedere la giornata di plastica, che smitter. Io sto guardando lo strumento, sono positivo, e poi quando entra qualcuno con qualche radio più seria della vostra faccio la prova, ma andava così bene. Questo è il Galaxy, potenza massima, alta. Prova, grazie, va bene. Poi Franco era, Franco, va bene. A me Franco c'ha la radio seria. I picchi positivi sono fra. Seria, positivi. Sei in basso però c'hai i picchi positivi. E la radio bella. Ciao Franco, ciao anche a Luca. Avanti Franco. Ciao Franco. Beh, sentito. Ripeto, questi sono baracchini, non sono radio serie. Infatti non bisogna prenderli seriamente, anche se molta gente io i picchi li vedo positivi, anche fortissimi, però non so da cosa dipenda, anche un'altra volta era successo, ti ricordi Claudio, guarda, a me mi arrivava un tipo con un segnale a picchi negativi e invece gli altri lo ricevevano bene, normale. Dai, avanti Luca per Franco. Luca, ehi, via, non ho mai niente, ehi, ti ho rilanciato per salutare Franco di Sorso. Ah, ciao Franco, mi ascolti? Piccolino, sì, stasera, vedi, ti ascolto. Ciao Luca, mi hai ascoltato. Tutti baci baci sì, di casina, come mai? Io sono a casa di mamma. Perché tu sei masso, eh? Noi ci sei molto alto, sei segnale 5, con un disturbo sotto dovuto da un disturbo oggi. E vabbè, avanti Franco. Ma non è che c'è un problema, chiaramente non è il tuo segnale. Io sto andando con 80 watt e sta dando la radio. 80 watt, ma io ti sono guascio. Ehi, capo. Lascialo scaldare questo, poi già si fa sentire. No, papà è il basso, adesso si salita a 7, da 5 a 7. Ah, vabbè, il mio segnale, beh certo. Se con 8 watt adesso sta dando 80, 80, beh, già va bene, giusto così per aumentare un pochino il segnale, visto sto usando questo barracchino, che lo chiama qualcuno. Avanti, Franco Binario. Ecco, è registrato Brecco. Ma è stato strano però che ci riceva tutti e tre bassi. Sto pensando che non sia un problema suo. Perché anche lui un po' è leggermente più basso, ma come dice lui sta scaldando. Dai, avanti Brecco. Buonasera. Un controllo mi date per cortesia. Piazzata hai. No. Ah, però mi hai illuso, dai. Comunque qui sei 9.40 quasi. Vabbè, ma siamo vicini noi. Da Franco lo volevo, dai. Da me sì. Segnale 8, modulati 9. K. Allora va bene. Cazzo che va bene. Cosa stai usando, Natali? L'ho morato. Stai usando l'antenna nuova, sì o no? Cazzo, ma non ci può dire? No, l'antenna vecchia sto usando. No. Vabbè, cazzo, l'antenna vecchia, diciamo, l'antenna un poco funziona, un poco non funziona, come te lo goccio? Cazzo, c'è 9.20 qua. E perché quanto arrivavo prima? Santiago 9. Ho aumentato di 20. Ho aumentato di 20, io non sono così in antenna. Quindi, che cosa hai fatto, no? Vabbè. Vai, aspetta. Non è bello. Adesso sono 9, scommetto. 9 modulato più 5, quasi più 5. No, stavo provando l'accordatore, capito? Ho alzato appena il watt e ho accordato. Però non è che sto usando niente. Sì. Allora l'antenna non funziona, già lo devi muovere in nuova. Cazzo, da 9, quasi 5, passi a 9.20, con la stessa antenna, con l'accordatore. Avanti, Franco di Sorso. Capo, ma già va bene, quando è asciutta, già va bene quell'antenna. Secondo lui è quando è bagnata che è il problema, così è. Infatti, quando si bagna, quando si bagna arriva a 2 mezze stazionarie e gli ho messo l'accordatore per non rischiare di bruciare, però poco fa ho alzato un po', no? È per quello che uscivo più forte, dai, adesso sono normale, come esco sempre. Legagli un ombrello sopra l'antenna. Come? Allegagli un ombrello sopra l'antenna aperto. E aspetta, quando finisco questi impegni che ho, la piazzo l'altra. Sarà 3 metri più in alto, va. E adesso. Alla grande allora. Vediamo un po', Luca, ci sei? Sì, sono rientrato. Stavo svuotando il cestino. La sono qua, dai, mamma mia. Mi sono venuta la mia compagna a portarmi un po' di spesa. Siamo qua. Stanotte mi sa che faccio una bella zuppetta di latte, caldo. E siamo a posto. A riempirti la mangiatoia è passata. Come, scusa? A riempirti la mangiatoia. Ho capito, no? È passata a riempirti la mangiatoia. Ah, sì, sì, sì. Ma scherzo, scherzando, io lo sai. Avanti, Claudio. Allora, toglietemi però una curiosità, perché sennò io qua non ci capisco niente. Allora, così va bene, Franco, di Sassari mi hai detto, no? Così va bene, la radio è a posto, il segnale è quasi 9, così o più di 9. No, no, rispetto al primo passaggio sei sceso, adesso sei sui 7. No, voi ci avete problemi forti. Io voglio educare uno da qua, infatti sono, io c'ho il watt e metterò davanti. E sta lavorando 80 watt, modulati 100. Ora, ora, ora. Stazionarie, 1, rapporto a 0, praticamente, quindi non gli duca tutta. Allora, così questo è il primo passaggio, mi devi dire se cambia la modulazione, se cambia la modulazione. Guarda, così è il primo passaggio e questo è il secondo passaggio. Cambia la modulazione o non è cambiato niente? No, no, la modulazione è rimasta buona adesso, è salito di segnale, però la radio è rimasta buona. 9 radio 5 da questa parte, Claudio. Ecco, c'era un disaccordo, mentre adesso invece sta andando bene, la radio è buona, la possiamo anche aumentare la radio, allora non gammaetta, ora, troppo alta così. Adesso gli spogli sono più, Claudio, ci manca poco, 9.25, là. Ma la mente c'è la radio troppo alta e o va bene così, perché Roberto Rotondo me l'ha fatto abbassare. Da questo passaggio a questo passaggio la posso tenere così alta o è troppo fastidiosa? No, troppo alta, Clark. La radio è troppo alta, abbassa. Dimmi Luce, va bene così, tu che sei intenditore delle mie radio, così va bene la radio. Non è rimormanza né nulla. Va bene, è forse però non dà fastidio. Puntella, puntella. A 8 va allora, a 7, a 7 e l'8 va il tranne più 3. Va bene. Quindi radio a posto e segnale a posto. Ok, ok, va bene. Questo Galaxy viene, lo faccio funzionare io, che sennò a vederci vale lo fumo. Franco Di Sorso, qualcosa è cambiato da te, va bene, lascio così. No, a me va benissimo, poi a chi è più vicino a te non lo so com'è la situazione, se gli rebomba di più di me, a me va benissimo perché sei molto distante. Va bene, c'hai anche i picchi positivi, Cla. Insomma, come dire, che ho guardato bene lo smitter, arrivi benissimo qua. Proviamo a ricostruire. Sì, vabbè, con quelle radio lì è chiaro che il picchio è con i baracchini, magari non va bene. Sorso, segnale sempre 7, è salito qualche cosina in più, 7, 8, com'è? No, sei 7, modulati 8, quasi 8, va, modulati. Va bene. Va bene, va bene, tenlo conto la radio, va bene, sì. Ok, avanti Franco Binacchio, fai girare. Sì, sì. Ma invece Franco, vedi, anche se è basso, però i picchi ce li ha positivi. Non lo so da cosa dipenda, Club. È un mistero, è un mistero. Avanti, Natali. E a sé un attimo. Ma se come vedi, Luca. E via, sono qua. Ma dai bene comunque, dai. Facciamo questa cuffietta, sennò, cavolo. Mamma mia, ne dimentico, perché una volta che vado fuori, portare il cane, dove dire quello, guarda. Io non l'ho fatta l'altro giorno, anzi ieri, scusa, l'altro giorno, no, ecco qua, andava, no. E tanto se mi tocca fare, fammi, quando metto la roba, ma la tengo un giorno e mezzo, due giorni, è pulita, poi a lavare, d'ore, va, ne approfitto così, che ci sono queste giornate belle, calde, stamattina mi sono fatto un lavaggio di lenzuola, e cosa devo fare, se no tocca impiccarmi, no? Stamattina, se tendevi la roba, te la congelavami. Sì, infatti ho notato alle 7 qualcosa, 7 e mezza, dai, stava iniziando già a impicciarti, motivi da Sassari, ed era tutto ghiacciato giù in piazzetta. Non so da Claudio, ma è da caldo, sicuramente c'era la pista da pattinaggio. Allora, io alle 8, neanche se 8 meno un quarto, 7 e mezza diciamo, ho aperto gli sportelloni ed era tutto bianco. Alle 8 meno qualcosa è uscito Filippo ed è rientrato immediatamente, non se ne è pigiato, qui si è messo di dare un po' di lavoro. Il giardino era completamente bianco, l'erba era completamente bianca dal ghiaccio e la macchina era completamente bianca perché è nera e quindi ci vedeva. Capito? Infatti fortunatamente non è servita sino all'ora di pranzo, altrimenti non potevamo manco usare la macchina perché era tutta ghiacciata, manco gli sportelli a Briani. Oh, con la pompa, ma senza buttargli acqua calda lì, piano piano, con l'acqua fredda, dovresti riuscire a sbloccarla, vai. Avanti, Franco, di Sorso. Aspetta, Franco, ehi, a me stai dicendo? No, all'altro Franco di Sassari, ma il telefono spento c'hai? No, perché? Ma è la tua cosa? Ehi, piglialo a vedere. È acceso, no. Aspetta, lo apro. Perché Claudio, neve ha fatto lì da te? No, ghiaccio, un grado c'era stamattina qua, un grado. Non c'ho niente, Nathalie. Come? Non mi è arrivato niente. Infatti non riesco a inviarti una foto. L'altra volta me l'hai inviata. No, stavo dicendo a Franco, forse ancora la linea non l'ho preso bene, non gli è arrivato. Sì, qua c'era freddo, però non ghiaccio proprio, non l'ho visto. Ma io non gioco che più alto, il tuo io. Non gioco. Comunque qua c'era tutto ghiacciato, questa piana fa paura. Un grado c'era stamattina quando ho aperto gli sportelloni, un grado. Sicuramente sei più alto tu, Clara, ma era ghiacciato qua a Sassari, nelle vie, stamattina sotto casa le macchine erano bianche. Sicuramente sì, sicuramente Franco è una zona molto alta, io qua sono a 400 metri fra, manca pochissimo a 400 metri di altezza. Ma se lui è a Sorso, non so quanto sia a Sorso di altitudine, tu lo sai Franco? No, veramente non mi sono mai interessato di vederlo, però si può anche fare, si può anche guardare. No, ma è più alto Claudio di me, a Puglia. Sorso è a livello del mare, fra, io sono in montagna. Io sono in montagna, sono a 400 metri a livello del mare, tu sei a livello del mare, quindi sei basso. No, stavo dicendo come zona, Franco, di Sorso è molto alto, quindi pensavo anche di ghiacciasse. Perché io quando lavoravo lì alla Giora, dove c'è Vito, fra, a volte la mattina era ghiacciato, capito? Già da Vito sei la parte alta di come si chiama? Sei a Sennori, Montigedo, come si chiama la zona? Montigedo mi pare. E noi nel mio ordine di servizio c'era regione La Giorra, non so poi, proprio lì di fronte, attaccato a Vito, c'è il ristorante Vito, c'è un caseggiato rosso e mattoni rossi, quello è l'impianto di sollevamento acque, capito? Per Sorso, per Sennori, per tutta la zona, perché con Sortile, il depuratore a Sorso, e con Sortile, il depuratore Sorso-Sennori, il potabilizzatore Sorso-Sennori, capito? Montigedo è la zona invece che c'è a destra, verso, diciamo, verso Osilo, la strada lì. Osilo sì, mi pare di sì. Non Osilo, no, per andare a Nulvi, la strada vecchia. Lì, caspita, ci sono quelle ultime case che hanno costruito, la parte nuova, che c'è un'apertura di segnale, guai. Se uno mette un'antenna lì, guai. Claudio! Ehi, Fra. Allora, guarda, adesso da Google ho fatto. Allora, in pianura giù, in piazza proprio, dove tipo Vannino lì, sono 136 metri dal livello del mare, mentre io sono a 364. Franco, guarda un po' a vedere se ti è arrivata. 364 perché sei alto, però Sorso è molto basso a livello del mare. 364 ti dà l'altitudine del paese, capito, della zona dove sei tu. Ma io sono proprio a montagna, all'altezza più alta di Serra Secca, capito? No, già va bene, immaginiamo solo che sei alto, non c'è problema. Ma io non sapevo neanche quanto ero perché Cosa mi aveva detto, cioè il punto più alto di Sorso è questo dove sono io, sono 364 metri. dal livello del mare, mentre giù in pianura sono 136 metri. Sì, beh, che giù fosse a quel livello lo sapevo già, pensavo qualcosa in più intorno ai 150, però lì dove sei tu è un bel alto. È alto perché tutto è salita, per andare a Senno, il Senno lì più o meno è a 400 metri, me lo già becci. Quindi siamo lì. Va bene, Natalino, avanti che stavi, hai calpestato a Franco di Sosso. Mi ascolta? Mi ha chiesto se era arrivata la foto. Sì, è arrivata. Va bene. Dai, allora, questo ha già funzionato, l'abbiamo fatto andare. Adesso me ne passo col capo, dai. Cambio attività. E mi allontano un attimino. Già sono qua. Natali. Dimmi. Allora dai, ci sentiamo, già che se vai in radio, già ti sto ascoltando, quello che c'è Vittore. Cosa? Capa, siamo qua, Cla. Devo dire, sì, è arrivata. L'MFG cos'è? L'accordatore? E allora, se c'è... Quello ci vuole, quello accorda anche un cacciavite. Bellissimo, bello, poi ad aghi incrociati, bello. È bello di assese, ma caro un negozio, da. Uno così l'ho regalato a un amico. Bravo, sì. Avanti. Buonasera, Polos. Perché c'è questa radio strana? Come c'è la strana? Non so, dentro un uovo di Pasqua, buh. La batteria stanca. Sei molto, molto cupo. Se ci hai mancato il microfono, Gianni, comunque ben entrato, ben sentito. Avanti, Luca, ci sei? Luca sta stendendo, Franco. Ma qui il mio segnale è tornato normale o sono più basso? No, per qui da me? Sì, perché arrivavamo tutti più bassi, anche io. Ma se prendo il provo, se vedi. È che tu hai agganciato qualcosa? Ma ero già agganciato. No, poco fa tu eri basso, all'inizio quando sono entrato. Ho fatto due passaggi perché stavo ancora scaldando, ma proprio due. Al terzo ero già agganciato, come... Forse come sei entrato tu, ho agganciato. Capo, perché io mi stavo ascoltando prima e vedevi basso, bassissimo, da 4 a 5. Ciao Gianni, buonasera. Stai cambiando il microfono? No, io infatti pensavo che fossi basso anche dopo, capito? Quindi che ci fosse un problema. Invece no, dai. Qua è sempre uguale. Adesso come va? Va bene. Ma vai una bomboletta. Abbassa le voci. Allora Gianni mi crepa tutti, mi crepa. Un momento. Lì. Come c'era lui in alto? Per il momento. Gianni c'è una bella posizione, caspita. Anche se qui la metto sul tetto, non arriverò mai a quei livelli lì. E là che mi pone di 4 metri di baro, è l'antenna nuova, è da porre, dimmi. E te ci vai a Natalino, per un momento, e poi vediamo. Chi li sono minacce, mi? Non c'è problema, se io sono contento, se arriva più forte sono contento per lui, non ho di questi problemi. Interessante che mi sentiate. Quando ti sta arrivando Frassos? Sei 9-5, sì. Ma tu sei sempre arrivato così da me. Anche di più, attaccando qualche usettina in più, qualche watt in più. Ma sei sempre arrivato, da tutte le antenne tu hai avuto sempre lo stesso segnale, cioè da lì. Va una zona, è tutta bici, in chibi, vedi i mari, è tutto, vedi. E a grido. Io ho l'antenna che sa che c'è fuori dal tetto un metro adesso, ed è tutta capottata. Quando piazzo l'antenna nuova e 4 metri di palo aggiuntivi, vediamo un po' se ti arriva qualcosa più forte qua. Penso che arriveresti più forte di come stai arrivando, quello sì. Vabbè. Comunque, già va bene, già vi ascolto tutti lo stesso, anche se i segnali sono bassi, ma la radio è sempre forte. Adesso sto usando l'omologato. E non va bene. E benissimo va. Per come c'ho l'antenna va benissimo. Avanti. Ciao Giovanni, buonasera. In compagnia di Nattarino, Franco di Sorso, Franco di Sassare e io doppio rumo. Avanti. L'ascoltate a Giovanni. Io sento solo il QRM che aumenta e basta. È troppo basso del radio, Giovanni, sei basso molto molto del radio, quasi quasi non ti ascolto neanche io. Aumenta il microfono. Che zona è? Adesso hai migliorato un pochettino. Ecco, tu non ascolti per niente. No, no, proprio sento che sta parlando, cioè sento il QRM che si solleva, però non capisco niente. No, come è entrato era basso, basso, basso, era. Per poco non l'avevo neanche sentito. E adesso non l'ho sentito. Hai un ripiglia già. Ripiglia. Io lo sento basso lo stesso a Giovanni, ma se qualche cosa già la capisco che dice. Si deve apprezzare, mette una bella antenna sul tetto, Giovanni, e così almeno lo sentiamo, vero Giovanni? Comunque, Gianni, guarda che Giovanni mi arriva, lo stesso segnale tuo mi arriva, Se avrebbe avuto un amplificato, basta mettere il microfono amplificato, uscirebbe bene. Beh, Giovanni, cazzo, ce l'hai a due passi, Gianlu Grillo, ce l'hai lì al terzo pettine, io sono a Sassari. Sì, ma però... Anche a Sassari sarebbe arrivato bene le modulazioni con un amplificato. Adesso sta uscendo con un, a quanto pare sta uscendo con un normale, un microfono normale. Qua arriva Santiago 7. E qua mi arrivano 2-5 a me. Ma è vicino, è a te proprio vicino. C'è un tiro di schioppo. Lo so. Guardati Franco. Stavo rispondendo a Talino, che zona è Franco lui? Ma al terzo pettine mi sembra che ha detto che è lì dove c'è il maneggio dei cavalli. Quindi è proprio zona coperta per me, proprio negativa. Lui mi ascolta? Non lo so, Giovanni, lo ascolti a Franco? Sono rientrato. Ascolta, io ti ascolto bene, ti ascolto, forte e chiaro adesso. Vabbè, io sto usando sempre il foglio di carta. È rientrato Luca, ti abbiamo rilanciato poco fa, Luca. C'è anche l'amico Giovanni dalla zona Terzo Pettine, ho capito. E poi è entrato anche Gianni doppio rumbo. Avanti Luca. Vabbè, io amico, non lo sento. Non lo sento, c'ho un po' di QRM stasera. Faccio fatica anche a sentire a Franco. Avanti Gianni. Ciao Luca, mi sentito? Come va il Covid? Posso dire, mi senti la voce, bella, limpida, a posto, come era prima. Cazzo, ieri mi si inceppava proprio, mamma mia, va. Perché sei un po' uomane tu. Tu dove sei? E allora? Mica aiuta quella a me. Ma io sul demonio sono povero. Sono arrivato a voi. Un po' di esso scagliola, me. No, io voglio quella toga su, che... Che è Brown Sugar? No, Brown Sugar no, io voglio guida doga, guida bianca come te la nebbia. Ma quella già lo sai, che costa? Appunto, sono un po' non me lo posso permettere, tu te lo puoi permettere, perché sei po' comune. Ho visto anche con lo spinello conficcato nel braccio. Sì, ma come tu lo sai? Col cannone nell'orecchio, vero? Ah, no, ma siete tutti gli altri, siete mio, Luca. Io mi stanno a Tarino, sto passando, sto andando a fare un giro, vedo un mostro qua, cazzo, con la camicia sollevata, con lo spinello conficcato nel braccio, e non era a Tarino. Che se no c'è due spicci, non è che vai 100, 200, 300 franchi, no? Non balli, non balli. Che franchi, lo faceva bene il braccio. Buone, ma è morta, mi ce l'ho perso il cavio. Oggi conosci tu pure io, Salvatore. Ma quel barbone che è morto, che hanno trovato morto lì a... in Viale Portatore. Non è che è Giuseppe Garibaldi, quel tipo, quel poveraccio che era sempre in barbetta, no? No, questo è Salvatore. Era anche il radiamatore, era... Poverino, è morto. Cosa ci volevo dire? Questo qui una volta, quando stavo lavorando all'albergo urbano, al comune, stavamo tagliando l'erba lì e ne viene lui con la motocicletta e me ne viene da dietro e mi dice: ma te, ma non è che ti avanza un po' di quell'erba lì? Dimmi, no, viene un campo, chi cazzo che studi, allora ce la fumiamo. Avanti Franco. Quella casa che c'è lì dopo la rotonda per andare alla bretella, quella casa disastrata che c'è sulla destra. Sì, proprio quella. Lì l'hanno trovato, ma dice che era roba di minimo due settimane è morto. Dai, pittà. Io non credo, ma era che va Padova? In stato di decomposizione, sicuramente lui l'ha cremato così. O magari era malato, chi lo sa, che infarto. Il freddo lo conserva, non lo... Il caldo è che lo decompone, il freddo lo surgela. Ma era in stato di decomposizione già. Chi è questo qua? Poi dico un po' che è giovane, giornale, un po' non si sa chi è, ma quattro anni. Ma è giovane? Non si sa, te lo sto dicendo, un po' dicono che è giovane, e un po' dicono che è una persona della certa età. Prima hanno detto 60 anni, mi pare, all'inizio. Ma, come si chiamava questo? Un giornale, non l'ho detto. No, non l'ho riconosciuto ancora. Ah, non l'ho riconosciuto. No, questo no, perché ripeto, è stato avanzato di decomposizione. Era minimo 2 settimane che c'è morto. E siccome io con qualche barbone lo conosco, speriamo che non sia Giuseppe, quello che c'è sempre in treno, a volte viaggia in treno da noi, scendiamo a farci i capri, le lumache. E quel tipo con la barbetta, noi lo chiamiamo Garibaldi, perché c'ha la barbetta tipo Garibaldi. Secondo me non c'è nessuno questo, non ha denunciato nessuno che è sparito. E chi lo denuncia? Mi sembra il fratello, uno è a Nuoro, lui ha scelto invece di vivere così, un sacco di volte il fratello lo voleva, ma non c'è mai andato. Quelle sono scelte che fanno. Avanti già, mafia. Che c'è? Che soffetti, davanti. Giovanni, ci sei, Burgia. Sicuramente viveva così, viveva in casa di Roccate. Ma lì non c'è la casa di Alessio, dove state dicendo voi? Poi io non lo so dove è Alessio. Questo rimane proprio un casolare abbandonato. Scendendo diciamo dalla Teroce, la bretella la trovi poi alla fine sulla destra, si vede quel casolare. Quello lì c'era la campagna di Alice. Non lo so se ancora ce l'ho, se l'ha venduta, però so che era lì. Non lo so, no. Non saprei. Come saprei? Cammino la baracchina. Una casa grande, Emmi. Solo che non ci sono soffitti, c'è niente. Ma è grande come è il futuro. Non so se sia quella lì la sua campagna, però so che ce l'hai qui presi. Lì non affiovano gli ortaggi con le fogne che scendevano da Sassari. Se la gente si recuperava, prima piantavano anche lì vicino alla fogna, per uscire più bella l'ortaggio. Lì a Sassari. Non mi arrugano quasi lì. Non sarà peggio delle medicine che ci mangiamo oggi, no? Sì, sarà però una cosa è ferma che mi fa ancora. No, l'unica cosa che bisognava lavarla bene. Io ho perso una zia che lavorava proprio praticamente la sorella di mia madre, ti parlo di 70 anni fa, minimo, lavorava negli orti e a volte loro mangiavano questa verdura cruda. Era morta, mi sembra, di tifo nero, come lo chiamavano. Se la annaffiavano con la fogna, era un grido. Devo comprarmi la batteria per quel microfono, perché è sottalimentato, per quello esce così. Fatelo tu subito che stai facendo male. Cosa ci va? 9 volt? Ma ne avevo trovato una che era già usata, ci aveva 6 volte qualche cosa, ed invece esce calata parlando, e mi ha fatto questo difetto di nuovo. Ok, Smith. Luca, chi è che può riprendere? Natalino, ci sei? Sì, che ci sono. Ma mi vendo un poco di microfoni, c'è più 3, le mevi più 4 da vendere. Com'è il più 3? Che attacco c'ha? Ok, gli Smith. A 4 punte ce l'ha. Va bene per il Galaxy. Piuttosto che discussioni. Eia, che è entrato Gianni? Buonasera a tutti, ok gli Smith. E cosa ti vendi? Sì, già te la faccio pagare a te lo smitter. Natalia l'ho pigliata in do. Uia. Buonasera a tutti, un profeta da questa parte. Pensavo che volevi agganciare anche tu mi qualche cosa di potenza. Buonasera. Lui, lascia perdere, c'è la radio buca. Ciao Gianni, ma cosa mi si arriva in 9.35? Fumo nelle parte chi è, signore, che sono andato a casa da solo, che mi sono annoiato, non è fumo frate. Ciao Gianni. Aspetta, sta parlando Franco. Franco? Ehi, ho detto che è arrivato il basso di tutti, arriva Gianni qua. Cosa vuole staccare di smutter? Ormai 9.35, ma arriva. Siamo a un tiro di schioppo con Gianni. A me 10 meno un quarto. Figura. Di più di 9.35. A me mi arriva, lasciatemelo 20. Avanti, rilanciamo a Giovanni. Fatti dire che antenna sta usando, che apparato, che antenna, Fra. Non lo so, Giovanni, sentite, vai. Buona la 2001. Capito, 48 la 2001 sul camion, però è... Oh, Fra. Ah, non è stazione fissa, ho capito. No, non è stazione fissa, è sul camion. Sta uscendo bene come radio, so che non è amplificato. Vabbè, tu c'hai, lo vedi praticamente, la tua antenna lo vede. Avanti, becco. E a me arrivi 3 e radio 2, arrivi. Non so chi sei, dove stai modulando.